Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Benvenuti sempre a tutte e tutti e bentornati su Liberi Dentro Eduradio TV, il vostro programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Oggi è il 2 novembre, martedì 2 novembre, io sono sempre Caterina e qui con me c'è sempre Antonella Cortese. Ciao Antonella, buongiorno. Ciao, ciao a tutti, bentrovati. Oggi abbiamo una notizia di cultura e spettacolo, sempre dal mondo delle carceri, perché Ramona e Giulietta è il titolo del nuovo spettacolo presentato all'Auditorium Maxi di Roma. Lo scorso 20 ottobre è stato presentato questa tragicommedia in atto unico della compagnia di attrici ex detenute di Re Bibbia. Si tratta, Antonella, della prima tournée della compagnia di attrici ex detenute e signore ammesse alle misure alternative alla detenzione della casa circondariale femminile di Re Bibbia, che porta questo spettacolo in collaborazione con la 16ª edizione della Festa del Cinema di Roma. E la prima tappa, guarda caso, è proprio l'Auditorium Maxi di Roma. Io ci andrei di corsa, però a parte questo, è una tournée di attrici ex detenute, non solo, come dicevi. Ma questa idea com'è nata? Ma allora, lo spettacolo nasce in collaborazione ed è stato realizzato per l'associazione Ananche, che si occupa di produzioni teatrali, promozione della cultura, come veicolo di miglioramento della qualità della vita. E in particolare presta molta attenzione alle problematiche sociali, infatti dal 2010 si occupa di teatro e carcere e dal 2013 svolge un laboratorio all'interno della casa circondariale di Re Bibbia. Questo lavoro è iniziato all'interno dell'istituto, quindi, e si è deciso di proseguirlo anche all'esterno con le attrici ammesse alle misure alternative alla detenzione ed ex detenute, per dare continuità a quanto realizzato da e con queste donne dentro il carcere, che donne che attraverso il teatro hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con la società esterna, soprattutto in questa fase delicatissima del reinserimento in società. Dunque, questo è anche il valore aggiunto di questa prima tournée per queste signore ammesse alle misure alternative, che hanno così la possibilità di uscire dal proprio domicilio per raccontare e raccontarsi attraverso la storia portata in scena. Anche la trama dello spettacolo portato in scena con un cast tutto al femminile è un modo per raccontare la loro vita, la loro storia, la storia di queste donne, no? È proprio così, Antonella. Infatti Ramona e Giulietta, ovviamente è una reinterpretazione dell'opera shakespeariana Romeo e Giulietta, è stato in carcere e forse ancora di più all'esterno l'opportunità di scardinare quello che ancora oggi e probabilmente più di ieri è un tabù fuori e dentro le mura carcerali. Sto parlando dell'amore omosessuale, l'amore quindi tra Ramona e Giulietta, due donne che nonostante i cancelli, nonostante le sbarre, i pregiudizi, trovano la forza di amarsi e gridare questo loro amore. Quindi uno spettacolo scritto e fortemente voluto sia dalle attrici detenute che dalla regista per raccontare come l'amore, così come il teatro, possa divenire, forse lo è sempre stato, il pretesto per dire altro, molto altro, e un pretesto per cosa, come cita anche il sottotitolo scelto allo spettacolo, Quando l'amore è un pretesto. Un pretesto per dare sfogo alla rabbia del singolo, che diviene anche una rabbia collettiva, se non capita, un pretesto per raccontare il carcere, un pretesto per interrogarsi su come e quanto il carcere sia una potente lente di ingrandimento della società esterna. Quindi si tratta, come dicevo prima, di una personale rilettura di una delle opere più celebri di Shakespeare da parte delle attrici della Casa Circondariale Femminile di Roma Re Bibbia, e un nuovo lavoro, spiega Francesca Tricarico, la regista, che vuole accompagnare le nostre attrici nella delicata fase del reinserimento sociale, ma soprattutto continuare a far sentire la loro voce attraverso il teatro, protette dal racconto e dai grandi autori, affinché il ponte tra la società esterna e il carcere sia sempre più percorribile. Ma siamo sempre al momento della musica e continuiamo da ieri con la nostra playlist della settimana dedicata al re del pop, Michael Jackson, del quale purtroppo si è vociferato tanto e anche male, devo dire, negli anni da quando è morto. E quindi ve lo vorrei raccontare anche con alcune curiosità. Per esempio, lo sapevate, lui aveva questi capelli impeccabili quando era molto giovane, come i classici ragazzini afro. E poi da adulto li trasformò in dei lunghi boccoli neri con i quali noi ormai lo conosciamo, ormai è passato come icona pop con questi lunghi capelli neri che altro non erano che un parrucchino, no? E tutto questo perché nel 1984 purtroppo subì un incidente durante uno spot della bibita famosissima Pepsi sul palco, un petardo lo colpì alla testa e fu una cosa molto grave per lui perché subì delle ustioni di secondo e terzo grado e da lì in poi dovette sempre portare dei parrucchini. Ma ascoltiamo una sua canzone famosissima, Beat It, una canzone che ha un animo davvero rock e la rivista Rolling Stone addirittura l'ha inserita tra i migliori brani di tutti i tempi. Ascoltiamola. E rieccoci, bentornati dopo la pausa musicale, siamo sempre su Liberi Dentro di Radio TV e continuiamo la nostra narrazione, però il martedì itinerante con Antonella, passiamo dai Balcani che abbiamo toccato la scorsa settimana e quella ancora prima, alla Libia, ai deserti, vero? Sì, cambiamo completamente panorama. E con un'ora di volo, insomma, quando il volo c'era ovviamente, da Tripoli, si può raggiungere 800 chilometri più a sud, Seba, cittadina anonima e capitale del Fezzan, che è una regione che si estende verso ovest fino alla falesia del Tadarak Akakus, che è il sito patrimonio dell'UNESCO, tra l'altro, oltre la quale ci sono Tassili e Largeria. Cominciava da qui l'avventura nel sud della Libia, terra di dune e pietraie, acace spinose e fiori viola che si chiamano Calotropis Procera. Un vero mare di sabbia, quindi, Antonella. Sì, una cerniera d'asfalto di circa 350 chilometri unisce il sud con uno degli erg, e gli erg sono praticamente un tipo di deserto esclusivamente costituito da distese sabbiose coperte di dune, un erg, come vi dicevo, più vasti di tutta la Libia, l'erg di Ubari. Le montagne di sabbia, pensa, sono così ripide che la visibilità del percorso è pari a zero. Cioè basta che un'auto scenda oltre un pendio prima delle altre per pensare che sia scomparsa nel nulla praticamente. Però lì tutto scompare, tutto riappare in realtà. E all'improvviso, infatti, tra le sabbie in fondo spunta uno spicchio blu orlato di palme. È il classico miraggio, tu dirai. Sono i laghi incastonati tra le dune dell'Erg di Ubari, alimentate da una falda sottostante profonda diversi metri, che è il residuo delle epoche umide sahariane, e sono tantissimi questi laghi, sono circa una ventina, ma i più frequentati, i più conosciuti sono Mandara, Umm El Ma e Gabraon. Sembrano proprio l'immagine, proprio diciamo iconica, paradigmatica dell'oasi nel deserto, l'acqua agognata dopo una lunga traversata, una lunga spedizione. I laghi che ora sopravvivono nel mezzo delle sabbie non sono altro che i relitti di un grande lago che si dice avesse un'estensione di 120.000 km quadrati, penso un po', un mare evaporato nel Sahara. E lentamente nel corso del tempo, nel corso dei secoli, il cambiamento climatico ha prodotto un inaridimento progressivo fino a giungere all'attuale condizione iperdesertica. E il grande lago è ovviamente evaporato, ma sono rimasti piccoli specchi d'acqua salata in mezzo alle dune, circondati da graziose cinture di palme. Quindi una natura paesaggistica alla fine varia, perché ci sono piccoli laghi oltre a questa grande distesa di sabbia, ma ci sono anche qualche villaggio, ci sono delle città, qualche paese. Sì, allora guarda, il lago di Gabrum, detto anche la tomba di Aun, è affiancato dal vecchio villaggio, di cui purtroppo restano soltanto dei ruderi di argilla, in cui vivevano i Dawada, una popolazione che si cibava prevalentemente di piccoli gamberi rossi presenti nelle acque. Poco tempo fa, qualche decina d'anni fa, il colonnello Gheddafi impose di far trasferire altrove le persone per garantire loro, almeno questo diceva lui, condizioni di vita più decorose. A tutti gli effetti però si è trattato di una vera e propria deportazione di massa, e in realtà i Dawada erano mal visti dagli arabi, e tanto che li chiamavano i mangiatori di vermi, perché ti hai visto che mangiavano questo crostaceo rosso presente nei laghi, e che tra l'altro veniva raccolto con reti a trama molto, molto stretta dalle donne, insieme a un'alga veniva lavorato, pressato in piccole ciambelle e desiccato e interrato per mesi fino a raggiungere un certo grado di fermentazione adeguato al consumo. E gli uomini invece erano dediti alla raccolta del natron, che è un minerale di carbonato di sodio idrato che gli antichi egizi usavano per rimbalsamare grazie al suo potere essiccante, e che veniva poi tra l'altro acquistato dai Tuareg, che lo compravano direttamente al loro villaggio. Ora invece i Dawada vivono nel villaggio di Germa, in case moderne, e tornano solo sporadicamente a quelle attività. Ma Antonella, prima parlavi dei laghi che purtroppo si sono inariditi e sono quasi, stanno ormai scomparendo, ma è possibile ancora fare il bagno? Allora, guarda, fare il bagno nelle acque di Umm El Ma, la madre dell'acqua in arabo, sono acque salatissime, e le temperature sono delle più diverse, un'esperienza veramente strana, perché ci sono zone d'acqua quasi bollente a zone invece completamente fredde o comunque fresche. È molto difficile nuotare, come pure nel Mar Morto, perché c'è un elevato tasso di salinità che tende a spingere il corpo fuori dall'acqua. Però 100 metri più in là una fonte d'acqua dolce ti permette di risciacquare via tutto il sale in eccesso, ed è un'acqua molto molto fredda sotto un cielo con un sole veramente di fuoco. E grazie alle tante evidenze ottenute attraverso lo studio dei pollini e anche alle analisi stratigrafiche dei siti rupestri abitati, è stato assodato che il Sahara, molte migliaia di anni fa, era in un contesto climatico e ambientale ben diverso, dove le acque abbondavano, il manto vegetale era presente e in alcuni casi tanto fitto e adatto alla vita di una ricca fauna terrestre acquatica che oggi quasi ci sorprendiamo, visto che c'è tanto tanto deserto. Quindi il Sahara era umido e quelli che noi oggi chiamiamo wadi erano veri e propri fiumi, e la pesca era una delle attività prevalenti, pensa un po'. Però rimaniamo in quest'area, rimaniamo nel deserto e ascoltiamo questo gruppo che si chiama Tinari Wen con la canzone Tastanakam. Ascoltiamolo insieme. Let us Bentornati di nuovo a tutte e tutti, sempre su Liberi Dentro e Duradio TV. Ho il piacere oggi di avere con me due ospiti, loro si chiamano Laura e Pietro, e hanno dato inizio lo scorso anno a un progetto locale qui nella nostra città di Bologna, presso il villaggio del Fanciullo, chiamato Progetto Identità in Movimento, dove interagiscono diverse presenze, servizi rivolti a bambini, giovani e famiglie. E siccome si tratta di una realtà locale, stiamo parlando di Bologna, innanzitutto vi ringrazio di essere qui, siamo parte della stessa città, ci stiamo rivolgendo al carcere, alla cittadinanza, e raccontateci allora come parte questa idea, qual è stata la scintilla che ha fatto scattare questa vostra iniziativa. Sì, allora inizio io, sono Pietro, e intanto grazie dell'invito. L'idea del progetto è nata l'estate scorsa. Abbiamo fatto un viaggio studi con un gruppo di persone che fa parte del centro studi Insight e abbiamo fatto questo viaggio nel sud Italia, abbiamo fatto varie tappe e ci siamo fermati in particolare a Cosenza per un tempo prolungato per studiare diversi progetti e realtà sociali che c'erano lì. E mentre facevamo questi lunghi viaggi su un pulmino strapieno in giro per l'Italia, parlando tra di noi, tutto il gruppo veniva da Bologna, confrontandosi un po' sulle varie esperienze, è venuta fuori questa idea, in particolare Laura, che è qui di fianco a me, lavora da tempo al villaggio del Fanciullo, con questo progetto di adolescenti di cui ci dirà meglio lei magari dopo, visto che tutti dentro quel pulmino avevano interesse in progetti di questo tipo, ma anche nel renderli non soltanto progetti educativi e sociali, ma anche progetti di ricerca da cui trarre, diciamo, un po' di conoscenze sui luoghi, sui territori, sulle persone. Abbiamo pensato che era interessante mettere insieme l'azione e la ricerca e abbiamo cercato il modo di renderlo concreto e ce l'abbiamo fatta in pochi mesi, devo dire. Esatto. Mi chiarisci quando è cominciato, il mese in cui è cominciato? La progettazione è iniziata nell'autunno scorso e poi abbiamo iniziato da gennaio 2021 ad agire concretamente, diciamo. Quindi nell'autunno c'è stata la parte di progettazione, bandi, eccetera. Ok, Laura, quindi passo la palla a te. Il contesto in cui si è svolto il progetto non è casuale, stiamo parlando del quartiere Cirenaica, è un quartiere di Bologna, e prende anche un po' l'inizio, un po' il nome di questo progetto che noi chiamavamo tutti il progetto Cirenaica, anche non soltanto il progetto Identità in Movimento. Ma spiegaci perché è importante anche per chi vive questo quartiere. Certo. Allora, questo progetto Identità in Movimento si è applicato in questo contesto che è quello del villaggio del Fanciullo, che è una realtà costituita da varie associazioni che si occupano principalmente dei giovani che si riuniscono nel territorio del quartiere San Donato San Vitale, in particolare in un rione che è quello della Cirenaica. Sostanzialmente in questi spazi, gli unici spazi aperti si ritrovano dietro al cancello di via Scipione del Ferro 4, e oltre al quale ci sono campi da calcio, campi da pallavolo e parchi. Quindi fondamentalmente c'era questo gruppo di ragazzi, giovani, adolescenti e preadolescenti che si riuniva abitualmente e che tutt'oggi si riunisce in questi spazi, che proprio la riconsiderano una casa, perché i loro pomeriggi sono lì. Loro dopo scuola si ritrovano nel campetto a fare delle chiacchiere in piccoli gruppi, in grandi gruppi. Quindi sostanzialmente davanti a questo grandissimo numero di giovani diciamo è nato questo progetto che è il progetto del centro giovanile, un centro di aggregazione che si chiama I Cortili, e questo è un centro di aggregazione dove c'è un'equipe formata da educatori, una psicologa e volontari del servizio civile che durante i pomeriggi propone delle attività a questi ragazzi, attività che vogliono accompagnare gli adolescenti nella crescita, sia sostegno scolastico, orientamento al lavoro, sia attività che promuovono un'espressione del sé dei ragazzi, quindi proprio la creazione di uno spazio dove loro mettano dentro i loro interessi, i loro desideri e diano delle forme alla loro personalità. Ecco. Questi ragazzi sono ragazzi e ragazze, sono italiani, sono ragazzi e ragazze di seconda generazione, quindi che hanno famiglie provenienti da altri contesti, soprattutto dall'Africa oppure dall'est, quindi principalmente ci sono un gruppo di ragazzi che hanno famiglie marocchine oppure nigeriane, e quindi ci sono anche delle ricchezze rispetto a questo tema, perché culture molto diverse, quindi le loro case si caratterizzano proprio in modo unico, ecco. Quindi questo è un po' il contesto. Quanti ragazzi, giovani e famiglie sono stati coinvolti nel progetto fin dall'inizio e anche in corso? Immagino che le persone siano aumentate, e anche se è stato difficile raggiungerli, magari con un'iniziativa che parte dalla città di Bologna, due ragazzi bolognesi, magari superando l'iniziale difficoltà o diffidenza che una persona che non appartiene alla nostra cittadina o comunque non è ancora cittadino bolognese può provare di fronte a un progetto proposto dall'esterno, secondo lui. Allora, in realtà questi sono ragazzi e ragazze che vivono in Italia da tanto tempo e quindi sono proprio cresciuti nella Cirenaica, e quindi è per questo che sentono un po' quello spazio come una casa. Il centro giovanile è presente da tanti anni, quindi loro ci conoscono gli educatori da tanto tempo. Io sono parte di questa equipe del centro giovanile, quindi conosco questi ragazzi da 3 anni. E quindi questo progetto nasce come proposta mia dell'equipe e di Pietro come appunto rappresentante dell'associazione di promozione sociale Insight. Quindi tutti insieme come equipe abbiamo fatto questa proposta a un gruppo di ragazzi che è già presente sul territorio e con i quali c'è già una relazione. Chiaramente la resistenza, la difficoltà che c'è stata è comunque reale, nel senso che inizialmente i ragazzi e le ragazze davanti alla nostra proposta di progetto, quindi un progetto di ricercazione che volesse aiutarli a pensare alla loro identità e all'identità dell'altro, inizialmente sembravano curiosi, sembravano motivati, ma sì, ci stiamo, facciamo le attività, facciamo i giochi, ok. Poi cosa è successo? Che poi nel concreto, vedendosi comunque noi arrivare con le nostre attività pensate, ben strutturate, hanno fatto capire con i loro movimenti del corpo e anche con le loro espressioni verbali che magari erano più intenzionati a non so, giocare a calcio, flirtare con la ragazza, insomma, avevano altre cose per la testa piuttosto che pensare alla loro identità. E quindi ci sono stati questi momenti di resistenza, un gruppo di 15 persone che poi in realtà è andato oscillando un pochino meno, un pochino di più, soprattutto maschi. Ci sono state queste resistenze, però poi nel tempo in realtà la riflessione sulla loro identità è diventata, diciamo, anche più interessante, più stimolante per loro e si è allargata. Quindi diciamo un progetto che ha avuto un'accoglienza iniziale molto molto favorevole, poi tu tra l'altro li conosci già da 3 anni, per cui è stato come un progetto che ti è venuto in mente, ma anche grazie a loro, diciamo, conoscendo i loro interessi, le loro esigenze, e poi qualche aggiustamento in corso d'opera di cui poi parleremo nelle prossime puntate. E un'ultima domanda per capire un po' il target a cui vi siete rivolti, l'età andavano più o meno dai... Andava dai 13 anni ai 19. Capito, perfetto. E stiamo parlando di ragazzi, diciamo, figli di migranti di seconda o terza generazione, giusto per capire il target di riferimento. Sì, principalmente. Poi c'erano anche italiani. Perfetto, quindi un bel mix, un bel mix. Allora, io lancio una canzone perché ormai il tempo è finito, ma ci rivediamo anche domani, e mi ha ispirato molto questo discorso che hai fatto di parlare dell'identità in movimento, di anche di questo concetto di grande libertà in fondo, in cui riscoprire la propria identità, e quindi Pharrell Williams che ci accompagnerà tutta la settimana con Freedom. A tra pochissimo per i saluti finali e ci vediamo domani con voi di nuovo. Grazie. Ciao, grazie. From man's white flower, it's an every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. E rieccovi, ben ritrovati, siamo sempre giunti ai saluti di fine puntata e seguite le nostre rubriche. Oggi parliamo di dialoghi sulla cittadinanza, dove ho intervistato Cosimo Rega, che a proposito di teatro, come vi raccontavo in apertura di puntata, è un attore della compagnia teatrale di Re Bibbia Stabile Assai, che è una compagnia mista tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria, sempre ovviamente del carcere romano. La sua è una storia bella, ve la consiglio, perché lui è ancora ergastolano, è un ex boss della Camorra, quindi è sottoposto a un regime di carcere ancora duro, però è riuscito a raccontare e a raccontarsi sempre attraverso il teatro. Grazie, scriveteci, redazione liberidentro, @gmail.com è il nostro indirizzo email, e noi ci rivediamo domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.